Siria Trezzi è il nuovo sindaco di Cinisello Balsamo. 49 anni, apprezzato assessore ai servizi sociali nella giunta uscente, anche al di fuori dei confini cinisellesi, vincitrice delle primarie del centrosinistra, ha sconfitto al ballottaggio con il 65% Enrico Zonca, candidato del centrodestra, che si è fermato al 34,8%. Cinisello Balsamo si conferma dunque roccaforte del centrosinistra, ma le sfide da affrontare per il nuovo sindaco saranno molte e significative. Su tutte, quella di rilanciare e rinnovare un rapporto efficace di partecipazione e sinergia con la cittadinanza, come evidenziato piuttosto chiaramente il dato dell'affluenza, fermatosi al 35,6%, peggior dato nella storia di Cinisello Balsamo. Risultato significativo invece quello di Bresso, dove con il 51,8% dal ballottaggio è stato eletto Ugo Vecchiarelli, che ha sconfitto Adriano Radaelli del centrodestra, fermo al 48,14%. Vittoria di valore dunque, alla luce degli apparentamenti del centrodestra nei giorni precedenti al voto, con liste civiche anche molto vicine al centrosinistra, che non hanno però ottenuto l'auspicato effetto di travaso dei voti verso il centrodestra. La cerchia altomilanese resta dunque saldamente in mano al centrosinistra, che potrà presentarsi unito alla fase di costruzione della città metropolitana, nella speranza che ciò serva anche ad affrontare con migliori risultati i problemi comuni legati in particolare ai trasporti, alle infrastrutture e al lavoro che accomunano il Nord Milano. Martino Iniziato, la città di Cinisello.it per Radio Popolare.